Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Big data, ecco un'altra espressione del gergo informatico che si sta facendo largo anche tra i non addetti ai lavori. Che cos'è questo big data? È uno sterminato flusso di dati generato da ogni oggetto collegato alla rete, la rete internet, le reti cellulari. Parliamo quindi di server, smartphone, sensori di ogni tipo e degli stessi apparati di rete. Tutti questi oggetti sono potenziali sorgenti di eventi in tempo reale. E oggi, in questa massa di dati informe, ci sono dei software che sono in grado di scavare alla ricerca di informazioni significative, utilizzabili ai fini più diversi. Ma la novità è che tutto questo, che una volta insomma era appannaggio proprio di pochi, è sempre più alla portata di nuovi soggetti grazie all'incremento della potenza di calcolo e alla diffusione di alcuni potenti algoritmi. Di tutto questo parliamo col professor Matteo Dominoni, ricercatore dell'Università di Milano Bicocca, dove tra l'altro dirige il master in ICT Management. Buonasera Dominoni. Buonasera a lei. Dunque, intanto anticipiamo che venerdì prossimo, 1 marzo, si parlerà proprio alla Bicocca di questi temi in un seminario che si intitola Big Data, la forza degli eventi, dove farete un po' il punto sui modelli, le architetture per il trattamento di questi dati e sui nuovi scenari applicativi. Ed è un po' quello che cercheremo di fare anche noi questa sera. Dunque, Dominoni, le chiedo subito una cosa. Da dove derivano questi software miracolosi che, come dire, riescono a tirar fuori una conversazione, immaginiamo, dal rumore di fondo di Piazza Duomo, per intendersi? Da dove derivano e che cosa ne rende oggi possibile una diffusione più vasta? Beh, una sorgente è senz'altro quella della sicurezza. Ci sono apparati che ascoltano, come ben noto. Parliamo dei servizi di sicurezza, servizi segreti, sì. Militari, insomma, nascono lì queste cose. Questo ambiente, certamente, certo. Come la rete internet è nata da ambienti militari, essenzialmente. Certo. Tante applicazioni interessanti nascono da questi usi e poi migrano col tempo verso usi civili di ricerca. Questi software agiscono in modo ad ampio spettro, ascoltando e riuscendo poi a strutturare i dati che sono nella rete. Tirano fuori un senso da questo groviglio di dati apparentemente inesplicabile. E quindi lei dice, intanto il primo passo importante è stata la diffusione di questi software che prima, diciamo, erano mantenuti abbastanza segreti, credo che alcuni lo siano ancora. Certo, ma credo che quello che viene fuori è una parte, naturalmente. Quella meno voluta, diciamo. È quella che, certo, come sempre nelle applicazioni, questi tipi di applicazioni. Senta, quali sono, a questo punto le chiedo, le nuove applicazioni? Abbiamo capito da dove derivano, quali sono le nuove applicazioni, i nuovi modi per utilizzare questi strumenti? E un po' come corollario le chiedo quali sono i nuovi soggetti che possono essere interessati a utilizzarli. Le applicazioni veramente sono una moltitudine, si va dalle analisi di reti di grandi dimensioni. Infatti nel seminario c'è un intervento di un responsabile GAR di Milano, GAR è la rete dati di ricerca, che parlerà appunto di come questi software possono essere usati per monitorare, dare servizi di qualità. Proprio per governare la rete informatica la dorsale di ricerca, esatto, italiana, che è un flusso dati veramente impressionante. Situazioni molto più limitate, non so, c'è un intervento appunto durante il seminario in cui si racconta come l'università sta usando in alcuni prototipi questi software per analizzare il traffico, per monitorare i laboratori di ricerca, i laboratori didattici, l'uso che si fa dei software per eventualmente evolvere i servizi in una maniera moderna e virtuale. Sulla base anche della misurazione, esatto, di quelle che sono effettivamente le domande di prestazioni. Gli esempi potrebbero essere tantissimi, sicuramente nel campo della logistica, diciamo, del traffico, per esempio. Nel campo della logistica potrebbe essere un'applicazione assolutamente importante nella gestione di eventi complessi come quelli appunto del traffico di una città, legati naturalmente a sensori che uno può usare per monitorare questo tipo di eventi. Oppure allo stesso traffico cellulare, no? Delle reti cellulari, da cui si possono oggi ricavare moltissime informazioni su quante, per esempio, possono essere le auto su una certa tratta autostradale, la velocità a cui si muovono. Poco tempo fa abbiamo parlato della possibilità in un aeroporto, per esempio intercettando proprio il traffico di reti cellulari, di riuscire a dirigere gli spostamenti delle persone che si muovono tra un gate e l'altro, organizzare il modo in cui arrivano gli aerei gate sulla base di stime legate a questo tipo di osservazioni. Insomma, non so se anche questo sia un buon esempio, ma... Assolutamente sì, assolutamente lei ha ragione. Per passare, diciamo, da questi esempi comunque legati ad un mondo, quello dell'informatica o quello della gestione della logistica, anche un po' astratto, si possono immaginare, per esempio, delle applicazioni nel campo del marketing, per esempio dei supermercati, si può immaginare di applicare una tecnica di questo genere? Assolutamente. Questa è un'applicazione classica di questo tipo di analisi, sia per i servizi virtuali, cioè gli acquisti online, ma anche per monitorare il comportamento dei clienti, per vedere quali sono le abitudini, per vedere come si può migliorare il servizio, sia naturalmente per la fruizione dei clienti, sia anche dal punto di vista commerciale, per migliorare le vendite. Ecco, diciamo che si possono immaginare delle strategie di marketing in tempo reale. Uno può immaginare di fare delle azioni sul modo in cui organizza, dispone, non so, gli oggetti sugli scaffali in tempo reale sulla base di questo segnale di comportamento che emerge da una massa di dati altrimenti inestricabile fino a poco tempo fa. E questo è il paradigma della conoscenza e potere, cioè quando uno conosce le informazioni che gli servono riesce anche a reagire e a rispondere in modo intelligente a tanti eventi, appunto abbiamo detto vendite, traffico, logistica all'interno di un'università, per esempio, potrebbe essere. All'interno di uno spazio produttivo, per esempio, dove ci sono una fabbrica, un grande impianto industriale. Certo, poi visto che stiamo entrando nell'era della banda ultralarga, cioè, cosa serve la banda ultralarga? Va bene, grazie professor Domenoni. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.